Steve a mis au point différents réservoirs. Ci sono novità anche sul Heute Journal mit Klaus-Peter Siebler. La finestra sul cortile di Riccardo Chiaberge. Rieccoci e buon 2009 a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Cominciamo il nuovo anno riascoltando alcuni estratti della nostra trasmissione andati in onda durante il 2008 e lo facciamo con una puntata interamente dedicata al cinema. Dopo l'11 settembre del 2001, mentre tutti si aspettavano un risveglio della vena patriottica nel cinema americano, Hollywood ha scoperto invece il complottismo e la paranoia della cospirazione in pieno stile anni 70. Di questo curioso fenomeno abbiamo parlato con Lietta Tornabuoni, scrittrice, giornalista, critica cinematografica della Stampa e dell'Espresso. Riascoltiamo il suo intervento. L'attentato sembra non avere lasciato traccia, insomma, no? Nella fantasia. Almeno due tracce ci sono. Sì. Cioè una traccia critica negativa che è Fahrenheit 9/11. Beh, certo. Di Michael Moore. E un'altra traccia che è invece patriottica nel film che si chiama Flight 491, che non sono sicurissima del numero, che racconta quanto avvenne sul secondo aereo, certo, dell'attentato del settembre 2001 a New York. Quello che si abbatté in Pennsylvania, no? Sì, quello che poi cadde e non si seppe esattamente perché tutti morirono, non si seppe da chi fatto cadere e perché. Però in questo film eroi ce ne sono molti, però sono cittadini. Cioè non sono eroi militari. Infatti. E se ci pensiamo, lo stesso è successo con la guerra del Vietnam. Cioè film come Apocalypse Now di Coppola o Platoon di Oliver Stone sono dei film che si occupano del destino del soldato, ma non della guerra. Certo. Gli ultimi film patriottici, che possiamo dire, dopo quelli sulla Seconda Guerra Mondiale, che sono sempre stati veramente patriottici nel senso convenzionale della parola, sono quelli di Sylvester Stallone, come persona che recupera un gruppo di prigionieri, eccetera, che però non è mai anche lui un vero militare, ma un outsider, insomma. Oggi ci sono stati molti film importanti, per esempio La Valle di Elak, oppure altri, e che denunciano gli orrori della guerra, le conseguenze della guerra negative sulla vita americana, ma non, è vero, il giornale ha ragione, ma non l'eroismo. Infatti, si sottolinea, insomma, diciamo, gli orrori della guerra in Iraq, insomma, quindi sempre in termini negativi. Ma qui in questo articolo si cita anche un altro film che ha fatto molto discutere, che è Siriana, uscito nel 2005, no? Un film molto bello che è stato premiato, che praticamente fa risalire tutti i problemi e tutti i guai dell'Iraq e della Mesopotamia, diciamo, a un complotto tra il petroliere, i neoconservatori e la CIA, che naturalmente anche qui addirittura ordina di colpire con un missile un leader arabo, perché altrimenti questo andava contro gli interessi delle compagnie petrolifere. Ora bisogna dire che la CIA è il cattivo di tutte le storie, certo, già da 20 anni, insomma. Sì, ormai ci sono, sono abituati. È un'organizzazione di canaglie, o almeno appunto dico come tale, viene presentata in tutti i film, fa i complotti, ammazza la gente, la prende, la porta per torturarla in altri paesi, insomma è il peggio che ci sia. Secondo me queste visioni così differenti, sono differenti rispetto a un passato relativamente remoto, sono causate da un cambiamento molto profondo nel costume avvenuto negli ultimi 20-30 anni, cioè è una forma magari facile di pacifismo si è contrapposta con successo, almeno nella comunicazione, nella narrazione, eccetera, a tutte le guerre militari. Certo. E all'eroe guerresco, a John Wayne, che abbiamo detto, si è sostituito un eroe quotidiano, che a volte è una collettività o a volte è una persona sola, ma comunque è sempre una persona qualunque. Ecco, un'altra cosa che sottolinea questo articolo di The Atlantic è il revival del film anni 70. Dice, la guerra del Golfo aveva prodotto tutto un filone ultraviolento, fatto di gente fatta a pezzi, il filone splatter, sì. E poi aveva prodotto anche tutto il filone degli zombie. Ecco, questi stanno ritornando in voga, gli zombie, no? Questi sono i film definiti professionalmente horror, non sono film politici. No, certo. Cioè, sono anche film con implicazioni politiche e devo dire che secondo me hanno finito per rappresentare un filone a sé, cioè un filone sanguinolento di gente ammazzata, mutilata, spaccata, eccetera, eccetera. Certo. Certamente per quello che riguarda invece i film di guerra, ci sono dei fatti più insiti allo spettacolo, proprio ai meccanismi dello spettacolo, cioè la descrizione di guerra pare che non va. Un film bellissimo come Redacted di Brian De Palma, che ha vinto il Leone d'Argento a Venezia, che racconta un episodio di guerra, attualmente in Italia non trova una distribuzione e quindi sarà ridotto a uscire su Sky. Addirittura. Forse la descrizione... Perché non funziona, insomma, non attira il pubblico. No, non attira perché è troppo vero, non lo so, perché è troppo visto in continuazione tutte le sere sul telegiornale. Certo. Magari poi non è vero affatto, perché quelle descrizioni sono sempre parziali e riguardano le cose che si possono riprendere, che sono sempre la minoranza. Ma insomma, per questo motivo, anche proprio professionalmente, da un punto di vista economico, di successi, eccetera, questi film di guerra non vanno bene, mentre vanno benissimo, diciamo, tutti i film che hanno come protagonisti delle vittime. Sì. E questo credo anche che corrisponda al costume di cui parlavamo prima. Ecco, per esempio? Film sulle vittime? Sì. Beh, per esempio La Valle di Elak, che ecco, è un bellissimo film. Straordinario. È una storia altamente compassionevole, profondamente compassionevole nei confronti di un ragazzo che come i suoi coetanei e commilitoni è stato completamente rovinato dalla guerra in Iraq, cioè reso uno senza moralità, senza nessuna remora, senza sapere più che cos'è la vita, eccetera. E poi è molto compassionevole verso i suoi genitori che ricercano questo ragazzo e trovano che è stato ammazzato dai suoi commilitoni e fatto a pezzi per distruggerne il cadavere. Con un'altra storia di orrore e di guerra. L'elemento che ha pesato, a mio parere, è il fatto che diventano sempre più frequenti dei film di tale così torbidi, così sanguinosi, così anche al di là del genere horror, così catastrofici, che veramente sembrano indicare una specie di mancanza di speranza, la fine della speranza, fiducia in qualunque nel futuro, ecco. Bene, grazie Arietta Tornabuoni, buona giornata e a presto. Buongiorno, grazie. Dall'attentato dell'11 settembre alla catastrofe dei mercati finanziari. Gli aggiornamenti sul crollo delle borse ci tengono tutti con il fiato sospeso, ma potrebbe esserci invece anche delle buone notizie per l'industria dell'intrattenimento e in particolare per il cinema. Così è stato anche l'anno successivo alla crisi del 29, quando in America si registrò un incremento del 58% degli spettatori nelle sale e raggiunsero la fama personaggi del calibro di Charlie Chaplin, Steinbeck e Woody Guthrie. Ascoltiamo dalla voce di Domenico Procacci, fondatore della casa di produzione Fandango, i possibili scenari futuri nell'industria cinematografica. C'era preoccupazione tensione che si sente in tutti i campi. C'è anche un po' il dubbio che le cose siano un po' cambiate dal 29 a oggi, che il consumo dell'intrattenimento abbia cambiato forma, che all'epoca era tutto sommato, tuttora è uno dei sistemi tra i più economici, come forme di, appunto, di intrattenimento. Però ce ne sono altre che non costano assolutamente nulla, all'epoca non esisteva la rete, la televisione anche era, per cui tante cose da allora sono cambiate. Certo. Non so se addirittura può diventare qualcosa a vantaggio del cinema, non ci credo fino in fondo. Quello che le dicevo sull'Inghilterra della Thatcher è vero, quindi è vero anche in situazioni di difficoltà, poi c'è una produzione più aggressiva, più motivata e vengono fuori anche dei lavori migliori, quindi se tanto mi dà tanto è probabile che nei nostri prossimi anni, vista l'aria che tira in Italia, si facciano dei film fantastici. Ecco, appunto, volevo chiederle se questa legge, insomma, che la restrizione dei finanziamenti pubblici fa bene al cinema, vale anche per il cinema italiano. A quanto pare negli ultimi anni è successo così, no? Sì, ma non fa bene perché non c'è una possibilità poi di rifugiarsi in un vero mercato, quindi c'è bisogno invece di continuare a finanziare quella che di fatto è una ricerca che viene fatta, che è giusto che venga fatta. Mi preoccupa la situazione economica del mondo in questo momento, perché temo che possibile restrizione del credito su un settore delicato come quello del cinema, dell'intrattenimento in generale, possa penalizzare proprio le realtà meno forti, delle piccole produzioni che magari hanno difficoltà a garantire i prestiti, a lavorare con il sistema bancario, se certo. L'indicazione è quella di stringere i cordoni. Ecco, poi come lei giustamente osservava, un conto è il cinema britannico, che per quanto povero di mezzi poi ha un mercato immenso, e noi abbiamo una barriera linguistica che ci ostacola, no? Sì. Abbiamo la linguistica, ogni tanto alcuni dei nostri film riescono invece a viaggiare all'estero molto bene, continuano ad essere delle eccezioni, per fortuna sempre più numerose in questi ultimi anni, per cui dei segnali molto buoni sul nostro cinema li vedo. Andare a ridurre i finanziamenti allo spettacolo in questo momento vuol dire andare contro tendenza, in qualche modo mi sembra di andare a limitare delle possibilità che invece si stanno sviluppando, mi dispiacerebbe, sarebbe un errore. Ecco, lei ha fondato una sua filiale in Australia, con sede a Sydney, no? Sì, è vero. Perché proprio l'Australia? Ma perché mi andava di provare a lavorare in lingua inglese, perché avevo nel frattempo negli anni conosciuto dei registi con i quali avevo già fatto dei film, lei ha nominato Rolf De Heer, sì. C'è anche lì Richard Lowenstein, e sono talenti veri con i quali avevo voglia di continuare a lavorare e ho cercato di farlo formando insieme a loro una società che banalmente, come tutto quello che alla fine faccio, si chiama Fandango Australia. Insomma, balla il Fandango ovunque, insomma, balla il Fandango in ogni continente. Quindi sostanzialmente questa sua idea di business è legata, insomma, a una internazionalizzazione, quindi anche il successo del nostro cinema potrebbe passare attraverso questa strada. Ma no, il successo del nostro cinema è bene che abbia delle radici molto nostre, però quando si lavora su dei progetti internazionali con registi non italiani o su dei progetti che poi hanno un'ambientazione non legata al nostro paese, farlo dall'Italia è più complicato. L'Australia è altrettanto periferica, c'è il vantaggio della lingua inglese, ma non è una situazione centrale nell'industria cinema. Il cuore è bene nel male Los Angeles, e in Europa Parigi e Londra sono le città che hanno questa centralità, ecco. Però lavorare su quei progetti dall'Italia è molto complicato. Ecco, Gomorra sarà candidato all'Oscar, e ancora una volta l'Italia, diciamo, ha come ambasciatore un film certamente importante e bello, ma che dà del nostro paese un'immagine molto negativa. Lei come la vede? La vedo che innanzitutto Gomorra è al momento uno dei 67 film, quindi abbiamo ancora un bel cammino da fare prima di avere una candidatura dei 5. Per quello che riguarda l'immagine dell'Italia non sono d'accordo, penso che il film abbia dei meriti e abbia un gran valore, come anche il romanzo di Saviano. Certo. Penso che ogni tentativo di cambiare le cose passa attraverso la conoscenza di queste cose stesse e continuare a raccontare a noi stessi e agli altri il nostro come il bel paese dove tutto va bene, si suona il mandolino e si canta per le strade, non abbia più senso. Certo. Bene, noi ringraziamo Domenico Procacci e gli facciamo molti auguri per il suo lavoro. Buona giornata e a presto. Grazie. La finestra sul cortile. Siamo sempre alla finestra sul cortile, guardando indietro alle puntate del 2008 e riproponiamo altri due incontri che ci sono sembrati di particolare interesse. Il primo riguarda La Scala, ma un appuntamento della Scala con un'opera curiosa che è stata commissionata a un compositore italiano, Giorgio Battistelli, tratta dal celebre film documentario di Al Gore Una scomoda verità, dedicato al problema del clima e del riscaldamento globale. L'opera non sarà pronta prima del 2011, ma il New York Times si è divertito a pubblicare una finta lettera nella quale si immagina una discussione tra il musicista e Al Gore su come mettere in scena l'effetto serra. Per riflettere su questi temi, su musica, ambiente, musica e impegno politico, abbiamo ospitato Quirino Principe, musicologo e collaboratore del Domenicale del Sole 24 Ore. Riascoltiamo l'intervento di Quirino Principe. Premetto che io mi diverto sempre molto quando mi trovo di fronte a opere, lavori di teatro musicale che affrontino problemi tradizionalmente o secondo così una visione generale escludibili dalla trattazione. Io credo che dipenda essenzialmente dal talento del compositore. Pensa un po' a quanto senso di impossibilità artistica, lirica, drammaturgica devono avere provato quei critici francesi che stroncarono a priori La Traviata di Verdi dicendo è impossibile scrivere un'opera su un fatto di cronaca dell'altro ieri. Alfonsina Duplessis, insomma, era morta l'anno prima, in sostanza. Sì, però lì almeno ci sono dei personaggi in carne e ossa, qui invece sono gli elementi scatenati, no? Sono gli elementi. È vero, ecco. Qui è un problema. Io non lo so, io conosco la musica di Battistelli, so che Battistelli ne ha, intanto ha un catalogo impressionante, ecco. soltanto di opere teatrali. Tu lo conosci personalmente, no? Sì, ma è mio socio come accademico di Santa Cecilia, il mio collega. So che Battistelli ha un tocco felice e che il suo grande talento è proprio quello di trasformare in drammaturgia le cose meno drammaturgiche possibili. Io penso che... Sì, la musica dovrebbe dare corpo più alle emozioni, no? Che noi proviamo di questo. La musica risolve tutto, perché gli argomenti più implausibili quanto a possibile trasformazione in drammaturgia teatrale, anche teatrale e operistica, vengono resi plausibili soprattutto dalla... È come nei film, come la musica per film, che rende percepibili i significati nascosti che diventano chiarissimi tramite la colonna sonora musicale. Ecco, ma tra gli grandi compositori del passato, chi potrebbe affrontare un tema così apocalittico? A me viene in mente subito Wagner. Certamente Wagner è il primo nome che viene in mente, ma si potrebbe pensare, per esempio, anche a quei grandi compositori barocchi che anch'essi componevano musica su soggetti storici vicinissimi, tipo la più recente guerra tra Francia e Spagna, poniamo, no? Sì. Tipo l'Orfeo di Rossi, in cui c'è la celebrazione del re di Francia a un certo punto sulla scena. Ecco, ma a parte, diciamo, le ironie che fa il New York Times con questa finta lettera in cui dice che non si potrebbe interrompere l'aria di un tenore e questo che dovrebbe interpretare la parte del meteorologo veggente con una presentazione in PowerPoint, insomma facendo vedere dei grafici, che sarebbe una cosa che ucciderebbe lo spettacolo. Ma se tu dovessi scrivere il libretto, lo faresti finire bene o male? Se tu mi conosci. Sì, ti conosco. Lo so già la risposta. Sai che io escluderei il happy end, proprio per natura, però non darei al pubblico la gratificazione di un finale tragico, lascerei tutto misterioso e insoluto, cioè porrei un grande quesito, una scena madre, per esempio, nella quale tutto si risolve e si sa come va a finire, farei finire l'opera lì. un po' come Richard Strauss fa finire Capriccio, no? In quel modo assolutamente enigmatico, si attende l'incontro decisivo e l'opera finisce in quel momento. Ma però, insomma, in modo enigmatico, insomma, sì, lasciando sì, aperto il finale. Ecco. E mi sembra che sia anche molto, molto vicino alla nostra realtà, quella di chi, insomma, ha visto battuti tutti i grandi tentativi di una descrizione futurologica, e quindi rende in un certo senso ancora viva la possibilità di continuare la storia, proprio perché non conosciamo il futuro, perché se noi conoscessimo, progettassimo il futuro e fossimo certi della soluzione negativa o affermativa di questo progetto, in quello stesso momento la storia perderebbe significato e avrebbe fine. Il pubblico apprezzerà. Beh, come sempre c'è, io l'ho visto sempre, c'è una pattuglia di circa, non so, un 10% di persone che capiscono molto bene il significato e comprendendolo lo apprezzano perché si ama ciò che si capisce. Dopo qualche anno alla ripresa questa comprensione e quindi questo gradimento, non so, più o meno può raggiungere poco meno della metà del pubblico, e dopodiché si creano le due fazioni. Con l'andare degli anni ci sarà sempre una metà del pubblico che dirà ma no, ma basta, ma non ne possiamo più, meno a rifinirla, e un'altra metà che invece considererà qualcosa come qualcosa di acquisito. Bene, noi ringraziamo Quirino Principe, buona giornata e a presto. Grazie. Alla prossima. A presto, arrivederci. E da Al Gore passiamo al suo sfidante e vincitore durante le elezioni americane del 2000, l'ex presidente George W. Bush. Lo scorso novembre è uscito negli Stati Uniti il film di Oliver Stone, W. Secondo alcuni critici, la figura del presidente texano nel film non appare così negativa come ci sarebbe potuti aspettare, certamente lontanissima da quella del cattivo cowboy dipinta da Michael Moore. Lo stesso è accaduto anche in altri film, come per esempio Frost, Nixon di Ron Howard e L'ultimo re di Scozia di Kevin MacDonald, dedicato alla figura di Idi Amin. Cioè spesso figure negative della storia vengono raffigurate in termini non diciamo positivi, ma insomma quantomeno simpatetici sullo schermo. E allora questo problema del rapporto tra cinema e storia, tra cinema e realtà, di questo problema abbiamo discusso con Irene Bignardi, critica cinematografica e presidente di Film Italia. Prima di tutto bisogna premettere che, non avendo visto certo, W di Oliver Stone, nessuno di noi l'ha visto. No, non può stabilire qual è il livello vero della simpatizzazione, per così dire, rispetto al quale si collocano anche gli altri film. Certo, voglio dire, nel film L'ultimo re di Scozia, che tra l'altro è un bellissimo film, sì, certo, ci sono dei lati umani di seduzione che esercita Imindada, anche perché dietro c'è Whittaker, che è un attore che c'è sempre stato molto simpatico. Però non viene nascosto nulla dell'orrore e della cattiveria e della crudeltà e della bestialità. Non riesco a capire perché possa essere accusato il regista di questo film di mettersi troppo vicino. È vero che in The Queen, per esempio, che è un altro bellissimo, sì, bellissimo ritratto, esce umanizzato e quasi simpatico Tony Blair. Ma comunque, per realtà, non parlare della regina, quella che esce vincente è la regina, certo, che appunto è un personaggio formidabile, a cui a questo punto perdoni anche tutte le sue piccole o grandi cattiverie nei confronti della povera, sì, ragazza smarrita finita sulle sue grinfie. C'è quell'incontro col cervo che è emozionante, cervo, no? Quando gli dice scappa, no? Che è quasi come chiaramente una metafora di Diana, insomma, che dice, sì, vai via. In realtà in questo caso probabilmente il film di Stone è solamente sbagliato. Voi avete guardato questa recensione, io ne ho sotto gli occhi un'altra, che è quella del New Yorker, in cui il critico David Denby si chiede pure a me, ma perché diavolo ha fatto questo film? Sì. Perché è un film che non scopre niente, un film che non vuole rischiare niente, un film blah blah. E ha un finale che però mi piace tantissimo. Posso leggerlo? Certo. A un certo punto parla di un certo attore, dice comunque il suo calarsi in questa parte suggerisce che il film avrebbe dovuto essere fatto non come un film biografico serio, ma come una commedia satirica, un contemporaneo Dottor Stranamore, e qui mi ricorda alcune cose del nostro recente passato, con un cast di satiri e di clown, perché questo è quello che si aspettava evidentemente sì. Il critico del New York. Cioè il film deve essere di una straordinaria banalità, questo è molto sorprendente, che faccia parte della sindrome di Stoccolma, cioè più ti avvicini, sì. Sei prigioniero di un personaggio per un po', più sei costretto ad affezionarti e quindi... Beh sì, c'è diciamo un'ossessione in America, il famoso quello che chiamano il Bush hatred, che è diciamo una tendenza, insomma un atteggiamento soprattutto del mondo intellettuale che è diventato quasi, come diceva lei, una prigione, no? Una prigione mentale. Questo forse è un po' anche il caso dell'Italia nei confronti di Berlusconi, del Caimano, no? Cioè, queste... Vorrei ricordare che comunque in Italia è stato fatto recentemente uno straordinario film, più o meno biografico, che è il ritratto di Andreotti nel Divo, che certo, tra il vero e il non vero, comunque è con un grandissimo Sordillo. Cinema, comunque. Certo. E vorrei anche dire che Stone è riuscito anche a fare un film molto bello su un personaggio che non amava. Lei ha citato prima JFK, che era un personaggio che lui amava, ma ha fatto un film su Nixon in cui Nixon attinge una grandezza shakespeariana, e effettivamente Nixon forse è un personaggio un po' più grosso che Bush, certo. Ma comunque anche non amando il suo oggetto, in quel caso Stone era riuscito a costruire invece una grande drammaturgia, una grande storia. Qui ci toccherà vederlo sto film per capire se è veramente così noto. Ecco, ma per tornare per un attimo al cinema americano, quando si dice che in Europa, in Italia in particolare, c'è un diffuso atteggiamento anti-americano, ma probabilmente il veicolo di questo anti-americanismo è stato il cinema di Hollywood, perché se noi pensiamo a quanti film ci hanno mostrato la corruzione della politica a Washington, l'intreccio tra politica e affari e tra politica e servizi segreti, eccetera, pensiamo a Gene Hackman in Absolute Power, no? Uh-huh. Sono tutte queste figure di presidenti venivano ritratte come dei mostri, insomma, e quindi come si faceva a non diventare anti-americani guardandoli? Ma sì, infatti mi viene da sorridere quando ogni tanto si alza qualche vocina che suggerisce di non mandare in giro per il mondo a rassegne o cose del genere certi nostri film, perché la forza invece appunto del cinema americano è stata la sua capacità di denuncia, fatta tra l'altro confezionata e preparata in una maniera spesso molto popolare e quindi ancora più capace di colpire il bersaglio del pubblico. Certo. In effetti, come dice lei, il cinema americano nei film grandi e anche nei film piccoli, anche non se ne parli di quelli indipendenti, ha sempre come bersaglio il certo. potere. Adesso poi la nuova ondata addirittura del documentario americano, che è formidabile, voi da Enron in là, da questo grande documentario sul caso Enron a quelli di Michael Moore, attacca con sempre le istituzioni e sì. tutto. Quindi... Del resto, insomma, il compito della cultura in ogni epoca, in ogni regime, in ogni paese è sempre quello di criticare il potere. Bene, noi ringraziamo Irene Bignardi, buona giornata. Grazie, e a presto. La nostra puntata speciale della Finestra sul Cortile si chiude qui. Un ringraziamento in redazione a Laura Marchesi e Daniele Casagrande, in regia a Giorgio Matè. La Finestra sul Cortile torna regolarmente sabato prossimo alle 2 del pomeriggio con una nuova puntata. Ancora un buon 2009 a tutti voi. Da Riccardo Chiaberge.